Ieri mi sono suicidato, ho fatto un patto scellerato. Ieri mi sono tradito, mi sono ammazzato, mi sono deportato. Ehi, ehi. Ieri mi sono suicidato con l'arsenico, mi sono avvelenato. Ieri mi sono pugnalato al fianco seduto di chi ho condannato. Mi sono fatto i conti senza dare il resto, di sinistra mi è rimasto solo il fango. Ho promesso cielo e mari, poi ho fatto il contrario, che la campagna acquisti sta dando i suoi frutti. Mi sono liberato per incatenarmi, mi sono flagellato, autogestito, partito democratico. Mi dicono ma sono il volto della destra, senza alcun decoro. Io miro, dire me. Ieri mi sono massacrato, usato l'anima del popolo per un sporco gioco. Ieri mi sono suicidato, ho preso per il culo chi mi ha dato un voto. Ieri mi sono suicidato, mi sono autogestito, mi sono avvelenato. Ieri mi sono suicidato, mi sono autogestito, mi sono avvelenato. Mi sono suicidato, suicidato. Ieri mi sono suicidato, morto nato, morto nato.